di lunghi di problemi con i quali mi sono occupato anche a partire dal punto di vista del professore. Ma in ogni caso, non lo so, mi pare che forse come domanda provocatoria, un primo tentativo di sollevare problemi, potrebbe essere a ridosso sia di quello che ha detto il professor Schioppa sia del professor Cappellini, una ridefinizione di questo, di questa linea di lettura interpretativa della secolarizzazione, che francamente mi pare possa essere anche a partire da quelle inquisizioni, che è un termine che però di uso ovviamente, però mi pare che rispetto alle, come dire, alle definizioni che il termine ha assunto a partire dall'uso che ha fatto Schmitt e probabilmente anche prima Weber, mi pare che possa essere come dire, ripensato, ecco, come dice in fondo. Mi pare che si possa dire in definitiva se da un lato l'impostazione del tipo di Prodi, in maniera ovviamente consapevolmente provocatoria, risponde all'esigenza di ribadire appunto quel dualismo di fondo che connota l'esperienza del, politica delle costituzioni occidentali, da quell'altro mi pare che non si riesca ancora a sciogliere come dire, quella sorta di a priori teorico che a partire da Carl Schmitt attorno al concetto di secolarizzazione si è costruito. L'a priori teorico è questo, che il concetto di secolarizzazione nel suo versante, perlomeno schmittiano, e esiti vari, si imposta su una tipologia concettuale che è dualistica, in senso proprio, in senso stretto, come del resto già è stato rilevato da Hans Blumenberg nella famosa discussione sulla politica ideologia di Schmitt 1 e 2. Mi pare che, ecco, il libro di Prodi offre anche dei materiali per cominciare a ripensare stratificazioni concettuali e probabilmente anche impianti che sono di tipo più metafisico che storico concettuale di senso stretto con la cultura di secolarizzazione. Per quanto riguarda il piano che hanno proposto, il piano di lettura che hanno proposto i due interventi, una domanda che vorrei fare è questa. Io sono un po' fissato con questo problema del catecon, che ritengo sia appunto il, meno per gran parte del libro di Prodi, il problema centrale, in quanto il catecon è questa figura di doppia appartenenza, sostanzialmente, no? Di doppia cittadinanza, se volete, no? Ecco, mi pare che in qualche modo la domanda che volevo solo Cappellini, cioè il problema provocatoriamente del soggetto, no? Cioè come si fa a soggettivizzare questa storia? C'è un soggetto, c'è una firma, c'è una chiusura. Francamente a me pare che il problema sia tutt'altro, cioè il problema sia esattamente una storia senza soggetto, cioè una storia non soggettivizzabile se non nella forma della rottura. Il tema delle continuità e discontinuità, che come avrebbe il suo paradoscopo, mi pare veramente in questo senso. Cioè, in realtà continuità e discontinuità possono essere assunte rispetto a un problema di soggettivazione o soggettivizzazione o di costruzione di un soggetto storico, così come sul piano del giuramento adesso si pone. Il giuramento mi pare che sia appunto un istituto che tende a eliminare qualsiasi possibilità di emergenza, senso di una rottura radicale, di un soggetto storico. O perlomeno questo soggetto storico può darsi solo come forma di rottura, che poi via via viene ricomposta all'interno della storia costituzionale dell'Occidente, di questo soggetto. Questa potrebbe essere forse una provocazione. Sono molte provocazioni. Molte provocazioni. Credo che il professore. E Cappellini non sentire una risposta, ma credo che poi potrei anche personalmente, non so se vuole dire qualcosa che fa qualcosa, però realizzo delle esposizioni prima di spezzare, qui comunque possiamo parlare perché rischiano gli altri amici, sono venuti fuori delle cose fondamentali per andare avanti, secondo me, ma per questo sono un punto contenuto. E io non so se vado avanti o vado avanti insieme, ci ritroveremo a riconfrontarsi, insomma, quanto dicevi tu sul problema della dottrina degli statuti in particolare, esempio, che dicevi in questo è fondamentale vedere una cosa per non trasmettere. Ecco, quando prima parlavo di pubblico, nel senso che sono contento che i sondaggi che ho effettuato non sono, diciamo, in contraddizione, cioè mi sembra che, ma le mie trivellazioni sono trivellazioni, anche se numerose, eccetera, limitate di fronte a tutta la complessità. Il tema è veramente quello bellissimo che entra nella scuola di Padova Schioppa, è quello del giornalismo processuale, insomma. Sì, un tema splendido, insomma, i tuoi studi sulla formazione delle giurie, eccetera, che appunto sono anche lì. C'è l'altro aspetto del giuramento che è il giuramento dei giurati. E quindi è tutta una cosa, secondo me, estremamente bella, anche solo come tema nuovo che non ci viene per insomma. Veramente sono rimasto molto colpito di queste, più che conferma, appunto, sono dalla conferma e da alcune nuove strade, come i casi appunto quando la parte ha usato un fluid iurale, insomma, cioè con questo accanto allo spergiuro il ritrarsi della parte di processo è veramente importante. Perché appunto vediamo la valenza politica del giuramento anche se si tratta di un giuramento processuale nel senso che diciamo rituale del tempo. Un punto grosso è quello posto da Capellini, davanti ad altri, al termine delle sue soluzioni metodologiche, che è importante, ma come problema, diciamo, assolutamente non risolto, cioè sulla riflessione sui rapporti non occidentali, insomma, per la storia. Veramente forse corre il rischio di questi mesi pensare molto spesso di aver caratterizzato in modo troppo forte la peculiarità dell'Occidente, nel senso che si deve rivendicare l'Occidente anche nei confronti del fondamentalismo islamico, per esprimere questi termini. Questa peculiarità, cioè, lo pongo in maniera problematica, cioè lì un'altra suggestione anche per i giuristi c'era, anche segnata le pagine, comunque quando parlavi citavi Miners, se non sbaglio, e poi di nuovo alla fine in relazione alla possibilità di utilizzazione del giuramento nell'ambito internazionale. Anche questo sarebbe così suggestione il rapporto fondazionale, il rapporto internazionale di pace che è pagina 508. Paesi non occidentali, mi pareva appunto nella l'interazione della cristianità sia per le manentiste a sconvolto di generazione, cioè ci ha preceduto sia quella che rischiora sotto la pressione nuova di fondamentalismi di procurare la fine dell'Occidente nella sua anima costituzionale. E forse anche questo discorso, anche vedendo il ruolo attuale dell'uomo, potrebbe essere molto interessante valutarlo da una prospettiva storiografica. Perché una paura sull'attualità delle pace mi è venuta leggendo a pagina 115, no? Queste ovunque leghe per la pace prendono la forma di associazioni, anche milizie giurate, che mi sa che magari un intervento dei vescovi fosse un vescovi, ma non ho paura che forse si dovrebbe diverso di pesce, sono solo le ruote e il carro. Sì, non c'è ancora. Sicuramente c'è ancora una fontina che sul testo c'era qualcosa che si chiama recentemente, uno ha voluto che stesse impedito al volto della bandiera, quindi sono scelte una mistica ma che modo qui si finisce nel tema dell'incertezza, insomma. Sì, è il rischio di appunto questi richiami senza la mediazione di una consapevolezza diventino poi appunto dei cortocircuiti. E di questo mi sembrava anche appunto. Si stanno delle letture, perché in genere sono gruppi di molte mancini, queste cose qua, insomma, che anche se non sono citate, forse si sentono un po'. Sì. È utile da tutte le parti, anche qui era giusto quello che diceva di Manzoni, coglione, cioè che è inconsueto discutere di più. Almeno nell'ambito degli storici del diritto c'è la consuetudine che ognuno studia con un argomento che gli altri non hanno studiato e sa che non sarà mai letto nel corso della propria vita mortale e spera, forse anche quando lo spera che così sia, comunque sa che sarà così. È una copia che manca 30 anni. Avrà diritto alla copia. Ma ha capito tutto lo stesso. Ah, quello copiato è quasi mio. Sono copiato. No, non devo copiare. Quindi è il consueto di una discussione di questo genere. È una cosa che si è deciso. Facciamo un piede. No, facciamo girare prima tutto il secondo bozzo di questo colloquio di Monaco, insomma, in cui credo si fa una prima sviluppo, insomma, della parte relativa al rapporto tra confessione e fede, il giudizio in età confessionale, forse un esempio di comunque le cose che cambiano in questa parte. Sì, io credo che sarà interessante poi fare una collazione, un raffronto tra gli atti del congresso e quanto finito verrà raccogliendo da queste. Da questi incontri seminariali, vediamo che cosa viene fuori. Prima c'è stata una domanda, un momento di intervento sulla tua relazione, ma non vorrei chiedere cosa meglio di sapere. Credo che avrete occasione di discutere poi qui. Almeno l'intenzione la può ripetere, o forse visto sulla rappresentanza di dietro la può ripetere. Mi affido che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. grazie per gli amici, per i nostri amici, e grazie per il vostro prezioso contributo. Sono veramente emozionato per questo. Sono felice, sono contento, è importante, questi racconti che vi sono fondamentali. Grazie a voi.